later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli non si capisce più un accidente, K e Drago non stanno risolvendo un bel niente. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Forse, Drago, il problema dei piccioni è un problema senza soluzione. Vabbè, dai. No, Drago, lo sai, ci sono nell'universo i problemi che non hanno soluzione, capito? Lo so, sì, ma è uno di quelli, secondo te, è i piccioni. È uno, l'esistenza di Dio, il Big Bang, prima i l'uovo, piccioni, la gallina, sì, i piccioni. I piccioni, i piccioni. Non c'è arma in grado di batterli, pensaci bene. Sono troppi, sono avidi, arrivano e prendono tutto quello che gli capita a tiro, non c'è niente da fare, un problema senza soluzione. Hai ragione, perché poi sono organizzati, hanno il loro sindacato con quel presidente lì rompiscatole che sbraita sempre e sanno perfettamente quel che vogliono ottenere, e cioè godersi la pensione. Io ho la partita IVA e i sindacati per me non esistono. Neanche per me, mai visto un sindacalista. Però in teoria lavorano per i lavoratori. I sindacati, già. I lavoratori sarebbero i piccioni pensionati, che però vanno in pensione senza aver mai lavorato. Nascono pensionati, è una specie di... Perlomeno i polli da macello sanno che diventeranno polli arrosto. Insomma, è pur sempre uno scopo nella vita e nella morte anche. Dove sono i sindacati dei polli da macello? E le galline ovaiole fanno le uova, no? E dove sono i sindacati delle galline ovaiole? I piccioni sono nulla facenti e hanno il loro sindacato. Non so, secondo me c'è una relazione tra le due cose, È una vergogna. Anzi, si vergogni! Si vergogni! Si vergogni! La fabbrica di polli. Baby, you have the flu. I want you. Don't you have a bird flu? Se incontro per la strada una bella donzella, la guardo e le propongo di andare in camporella. Lei mi fulmina con gli occhi e mi dice non è aria. Guai te se mi tocchi che magari c'hai la diarrea. I want you. Baby, you have bird flu. A noi giovani polli, amanti dell'effimero, non è più permesso un po' di sesso libero. I want you. Un wafer presidente della Repubblica. Un napoletano era cacao, no? O erano la nocciola? Non mi ricordo mica. No, è una vita che non mangio un napoletano, Adesso mi piacciono i lombrichi, però a suo tempo mi piaceva anche il napoletano, E adesso il napoletano è presidente della Repubblica. Come cambiano i tempi, però, E più tardi di quanto sembra. La gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Si calmi, signor Faraday! Fatemi uccidere! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Quello che proprio non mi va è l'idea di dover convivere con questi volatili schifosi. Perché, scusa? Ma ormai abituati a non pensarci. Ma sì, pensa ad altro, astraiti. Ma no? Sì, è impossibile, Drago. I piccioni ci sono, hai capito? Il loro slogan è noi ci siamo, noi infatti ci, sono. Ci sono. Ci sono. E non basta astrairsi per non pensarci più. Magari. Se fosse così facile mi astrairei e mi trasferirei, che ne so, nel triangolo delle Bermudas. Così sparirei nel nulla e Peter Colosimo scriverebbe un libro su di me. Ma Peter Colosimo è morto da 20 anni. È morto. E poi i piccioni ci sono, quindi niente Peter Colosimo. Pronto? No, il tuo. È il mio. Pronto? Pronto? Chi parla? Come chi parla? Io sono il presidente del sindacato Piccioni Picciotti Pensionati. Ah, lei. Allora, stia un po' a sentire. Che intenzione avete con tutti i vostri iscritti? Non è il 1° maggio, che cosa ci fanno tutti sti sindacalisti in piazza, cioè nella fabbrica? Quanta giuezza, quanto sangue caldo. Mettesse la testa a posto, così, capiste? Sì, ma... Sì, mi dica perché mi ha telefonato, perché questi metodi così non mi piacciono, eh? Ma niente, niente, per sapere se stavate... Bene. Sì, stiamo bene, sì. Lo sa perché? Perché io invece non sto per niente bene, anzi io sto malissimo. Lanciafiamme. Spilli. Liquide viscosi. E che è? La terza guerra mondiale? Sì, siamo alla terza guerra mondiale. Non sapevo che l'avremmo combattuta contro i piccioni, ma evidentemente è così che vanno le cose. Questa è la terza guerra mondiale. E voi ve ne dovete andare. Perché ce la dobbiamo andare noi? Perché questa è una fabbrica di polli. Ah, e voi che polli siete? Voi siete esseri umani. Sì, vabbè, ma cosa vuol dire? Siamo solo in due, voi sarete 200.000. Perché noi siamo tanti. Poi noi piccioni siamo così. Ci siamo. Siamo una moltitudine. Sta nell'essere piccioni. Non possiamo mica diventare un altro animale. Noi siamo piccioni e rimaremo piccioni sempre. Noi ci siamo, non è che ci sono da fare tantissime discussioni al riguardo. Siamo qua, una moltitudine, eccoci, immobili. Vabbè, ma voi ci siete, ma esserci e basta non ha alcun senso. Mi ascolti, quando le razioni di mangime finiranno, che cosa farete? Ci andiamo, dove ce ne sono di altri ancora più copiose, ancora più numerose, non so se mi spiego. No, sì, vedrete che il dissuasore chimico vi sconfiggerà, sì, quello sì, altro che... E anche i dissuasori elettrici a binario, o è dissuasori elettrici a binari, no, ma non so. Ma che cosa state dicendo? Ma smettetelo di giocare con dissuasori chimici, elettrici, meccanici addirittura. E che siete dove andate, bambini? Facciotto di 4 anni, mi sembrate. Facciamo una bella cosa. Venite a sedervi a un tavolo insieme a noi, tutti intorno. Cerchiamo un equilibrio. Sì, una cupola. L'equilibrio perfetto, l'equilibrio della bilancia che deve restare immobile, immutata nel tempo. E certo, è questa la soluzione. Assolutamente questa. E deve essere la soluzione. Quale deve essere la soluzione? E questa deve essere. E lo dice la parola stessa. Solusce, solvisce, non so come spiegarmi diversamente. Vedo, me l'ho dicevo, però che forse. Non ci vuoi dire niente, non fa niente, vatti in Vito, tanto sei ignorante, sì. Mio amico Vito, va buono, va, che vi posso dire? Niente. Un messaggio è stato lanciato con chiarezza, direi, madornale. Cerchiamo di capirci, amici, in totale tranquillità e serenità. Immobili e presenti. Un baciuzzo a tutte quante voi, picciotti. Un baciuzzo. Che cosa succederà adesso? Con il bacio al presidente del sindacato Piccioni Pensionati, Cappa e Drago sono forse diventati uomini d'onore. Non perdete l'occasione di scoprirlo lunedì prossimo a 00:30 su Radio 3 per i prossimi padrineschi allestimenti de... La Fabbrica di Polli. Anche sul podcast di Radio Rai. La Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago. Con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Luca Gemma, Paolo Giangrasso. La fabbrica di polli @rai.it. barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce. Oh, my God. Bar.